Ma presente son Gonzulo, salutam presidente. Dovete perdonare il tono fuori un po' pesante. Presidente importante, ma se chiavate in capo un pensiero mi addormenta. Sienta, tu manca ma canusce, però tu mi rappresenta. A me tanta gente ho problemi proprio chi ste a gente. Saranno 15 anni che sorrida tutto quanto sua dente. Solo non è cattivo e drogato e nemmeno delinquente. Ho capito, vi siete spaventato, ricchino tatuaggio, stragazzo che cagate, presidente sentite. E non mi fido più, mi sono scucciato e spiega che cazzo tengo perché sono contrario alla decapitata. Una cosa piace all'ate e per me una distruzzata. E allora rispondite, rispondo maledetto, perché ho strano son chi e non è strano un cadetto. Un tipo in doppio petto, banchiere cavaligetta, maledetto. Il tuo Dio chi cazzo te l'ha detto, che ho stabilisce tu chi fosse storto e chi diritto. Presidente, è chiaro il concetto, ma senti. Gente che t'ha fatto presidente, non t'ha già spiega niente. Io faccio musicante e tengo compagnia che voce mia chi te no piatta vacante. Si tuo presidente, è come se tu fossi un servizio che non sono utente. A venire a dume gentilmente, mi ha spiegato perché gentilmente. E sa sta a tutte gentilmente, che ne viene a me gentilmente. Se a me non me ne viene niente gentilmente, presidente, molla ma va a te ne voto già da punente. Voto già da punenda, già dalla gentilmente, già dalla gentilmente. Cerco nei miei pensieri e credo di capire se ho bisogno di te. E la risposta è voto già da punenda, se non presidente. Voto già da punenda, se non presidente. Sapere più niente, non so che adolescente e t'assepava proprio come tutta la gente. E la nemica mi se l'è pigliato stata proprio ultimamente. Appunenda, appunenda, non voglio polizie che l'aumenta. Voglio spazio sociale vagarinda, appicciate le visioni e non fa niente. Servizi zero e zero ancora finanziamento. Appunenda, appunenda, nessuno mi rappresenta. Non voglio sapere più niente, caconda me ne zero è pure fin troppo evidente. E allora presidente, sia chiara rara per recchie, spila buone e tiena. Perché sono mortaiere, defunta. Chiedo in mano a cuore e vai col dente e fai punta. Con morte rinda a casa, pesta e feto veramente. Piccio palla per te, presidente. Molla ma va a te ne voto c'ha da punenda. Voto c'ha da punenda.